Perfetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. La deputata britannica Jo Cox aveva ricevuto minacce nei mesi scorsi, trovato un collegamento tra il suo assassino e un gruppo suprematista bianco ostile all'Europa. Un giornale americano pubblica un video del momento dopo il presunto suicidio di David Rossi, l'ex manager di Monte dei Paschi, ma la procura e gli uomini ripresi erano già stati identificati. Renzi a San Pietroburgo, accordi con la Russia per 1 miliardo di euro, lavoriamo per costruire ponti, dice Mosca, contiamo sull'Italia come hub energetico. In Sicilia sono ancora 32 i roghi attivi, anche se la situazione sta tornando sotto controllo. La situazione più drammatica è a Cefalù. Attesa per l'Italia questa sera in campo con la Svezia, siamo agli europei di calcio. L'unico cambio rispetto alla formazione che ha battuto il Belgio dovrebbe essere Florenzi al posto di Darmian. 1 milione di visitatori in 2 settimane sono queste le attese per le passerelle realizzate dall'artista Cristo sul lago di Iseo. Apertura al pubblico da domani. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri contatti 349-238-6666 per i messaggi sia SMS che WhatsApp. C'è il nostro canale Telegram sul quale ogni giorno vi diamo qualche anticipazione, telegram.me/effettogiorno, e poi se andate sul nostro sito www.radio24.it c'è la mappa del nostro consueto giro per l'Italia che solitamente iniziamo nella seconda parte della trasmissione. In apertura andiamo dunque in Gran Bretagna per gli aggiornamenti sull'omicidio della deputata laburista Giorgia Scaturro da Londra. Buongiorno. Sì, buongiorno. È a 24 ore dalla morte di Jo Cox, la deputata laburista brutalmente uccisa ieri a Bristol in Yorkshire, gli investigatori stanno intensificando le indagini sull'unico sospetto agli arresti, il 52enne Tommy Mair, un uomo della zona con un passato di problemi mentali, disoccupato e trovato in possesso di riviste di estrema destra. I detective britannici stanno continuando a perquisire la sua abitazione e indagando a 360 gradi sul movente che avrebbe spinto l'uomo ad aggredire la deputata 41 con un coltello e 3 colpi di arma da fuoco, ricordiamolo. Britain First, la Gran Bretagna prima di tutto, avrebbe gridato l'uomo prima del feroce attacco. Questo è anche il nome di un movimento di estrema destra britannico che però avrebbe subito smentito ogni affiliazione con il sospetto killer, anche se si indaga la pista di altri movimenti estremisti di destra. Scioccante anche la pista di un possibile messaggio estremo lanciato in vista del referendum sulla permanenza della Gran Bretagna nell'Unione Europea, visto che la vittima era europeista. Intanto è emerso oggi che Cox stava subendo molestie da ben 3 mesi prima di essere uccisa. Di recente la deputata madre di 2 bambini aveva riportato alla polizia di aver ricevuto messaggi di minaccia da parte di un uomo che non sarebbe stato lo stesso che la polizia aveva già arrestato per queste molestie. Purtroppo anche le misure protettive che erano state predisposte per proteggere la donna evidentemente non sono serviti a niente, Simone. E ti ringrazio, grazie Giorgia Scaturro per questo aggiornamento. Il tutto irrompe, come già diceva Giorgia Scaturro appunto, durante la campagna per il referendum sull'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea e ci si prepara in caso di questa eventualità. Per capire cosa succederà all'economia bisognerà aspettare. In segno di rispetto per l'omicidio di Jo Cox, il Fondo Monetario rimanda infatti a domani la pubblicazione del report con tutti i numeri sulla Brexit. Anche le banche centrali mondiali sono al lavoro. Fed, BCE e BOI studiano quali misure mettere in atto esattamente tra 1 settimana nel caso di un sì all'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. I media giapponesi parlano di un'iniezione di dollari nel mercato monetario per evitare illiquidità e rialzi indesiderati dei tassi nel breve periodo. A Tokyo, Banca del Giappone e governo si riuniscono per capire come intervenire per bloccare l'apprezzamento dello yen, bene rifugio, ai massimi da 3 anni sulla sterlina. Tra le misure di cui si parla in Europa, anche lo stop alle aste dei titoli di Stato, almeno nei giorni immediatamente successivi al referendum, ma si iniziano a valutare anche le possibili opportunità. In caso di Brexit ci sarà chi sposterà le proprie attività da Londra, Dublino, Francoforte, Parigi e così via. E perché no, anche in Italia. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E anche di questo si parla al Forum Economico di San Pietroburgo, dove al centro in queste ore è l'Italia. Laura Bettini, nostra inviata. Laura. Buongiorno. Buongiorno a tutti da San Pietroburgo. Sì, il premier Renzi tra l'altro stamattina ha proprio ricordato la deputata laburista Cox, ha detto di essere preoccupato dal clima di odio che ha strappato ai suoi cari una giovane donna che aveva dedicato la sua vita alla cosa pubblica. Oggi, come dicevi, è la giornata di Renzi qui al Forum dell'Economia di San Pietroburgo. Tra pochissimo interverrà la plenaria insieme al presidente Putin e poi con lui avrà un bilaterale attorno alle 15, una piccola preoccupazione da parte del presidente del Consiglio che non potrà seguire la partita, e poi dopo gli incontri con gli imprenditori italiani al padiglione italiano, perché l'Italia per la prima volta nella storia di questo forum ha un suo padiglione in cui presenta le sue aziende. Ha detto stamattina Renzi, parlando delle tensioni con la Russia: dobbiamo costruire dei ponti, dobbiamo portare il dialogo, dobbiamo aiutare le parti a compiere gli accordi di Minsk per superare l'attuale fase e le sanzioni che reciprocamente l'Unione Europea, gli Stati Uniti e la Russia dall'altra parte si sono imposte a causa della crisi ucraina. E chiaramente la sua presenza qui è proprio un tentativo di costruire questo ponte e di pacificare. A te Simone. E grazie Laura Bettini per questo aggiornamento da San Pietroburgo. Siamo al video sulla morte di David Rossi, ex capo delle relazioni esterne del Monte dei Paschi, video che attesta la presenza di due uomini, ma la procura dice lo sapevamo. Un video già agli atti delle indagini, si affretta a chiarire la procura di Siena sull'onda del clamore suscitato in rete. Le due persone ritratte sono già state sentite nelle primissime indagini, ma per evitare ulteriori illazioni verranno riascoltate. Le precisazioni degli inquirenti non rendono meno inquietante il video diffuso dal sito del New York Post sul caso di David Rossi, il capo area comunicazione di MPS, trovato morto sotto la finestra del suo ufficio il 6 marzo 2013, ai tempi dello scandalo che coinvolse tutto il gruppo dirigente. Le immagini delle telecamere di sorveglianza ritraggono l'uomo a terra, morente. Si vedono avvicinarsi due persone. La prima arriva a pochi centimetri dal corpo, lo guarda e poi va via, apparentemente senza fretta o particolari reazioni. Uno di questi, rende noto la procura, fu colui che chiamò il 118. Sulla morte di Rossi, archiviata come suicidio, la procura di Siena ha riaperto le indagini per valutare gli elementi raccolti dai familiari che propendono per un omicidio. Tra i punti oscuri, una ferita alla testa compatibile con il colpo di un corpo contundente e il precipitare di un oggetto con il corpo già a terra. Tra i prossimi atti di indagine, il 25 giugno è fissata una simulazione della caduta dalla finestra. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La politica, ci siamo, poche ore ai ballottaggi. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Buongiorno, ancora polemiche sulla candidata 5 Stelle Virginia Raggi. L'avvocato avrebbe ottenuto due incarichi legali di recupero crediti per un totale di 13.000 euro dalla ASL di Civitavecchia, comune governato dai 5 Stelle, come riporta il Fatto Quotidiano, in contrasto su quanto aveva detto Raggi durante il confronto TV, perché aveva dichiarato di vivere solo dello stipendio di consigliera comunale. E tutto questo avviene dopo la gaffe su ATAC, in cui la candidata 5 Stelle ha dichiarato essere una coincidenza averlo fatto durante la partita di calcio. Per l'antagonista Roberto Giachetti, PD, ci vuole coraggio a dire cose così. Virginia Raggi chiuderà la campagna ad Ostia, dove dovrebbe presentare la giunta, Giachetti invece al Ponte della Musica. Sul filo di lana la partita a Milano con Beppe Sala e Stefano Parisi. Il candidato PD ottiene l'appoggio di Basilio Rizzo della lista Milano in Comune, mentre per Maurizio Lupi di Area Popolare domenica ci sarà una sorpresa a favore di Stefano Parisi. Altra sfida, quella di Torino. Per il sindaco uscente e candidato PD Piero Fassino, il voto influenzerà la politica nazionale, mentre Chiara Appendino 5 Stelle accusa il sistema di essere contro il Movimento 5 Stelle. A Napoli invece il sindaco Luigi De Magistri annuncia la nascita di un movimento politico popolare che va oltre i confini della città e parla di sintonia con i 5 Stelle. Lo sfidante Gianni Lettieri del centrodestra promette invece di cancellare 5 anni di grigiore. A te Simone. E grazie Elisabetta Fiorito. Beh, abbiamo parlato di Roma, di Napoli, di Torino, di Milano, ma mica si vota solo là. Sono 126 i comuni dove si svolgeranno domenica i ballottaggi tra i candidati sindaci. Oltre alle grandi città come Roma, Milano, Napoli, Torino, si voterà anche a Trieste, Bologna, Latina, Savona, Arcore, Caserta, Varese, Brindisi e Grosseto. In Sardegna andranno al voto i cittadini di 5 comuni, mentre in Sicilia torneranno alle urne in 9 comuni. Complessivamente sono 8,6 milioni gli elettori che dovranno scegliere chi amministrerà le loro città per i prossimi 5 anni. A Benevento è tornato in campo Clemente Mastella, a capo di una una coalizione formata da Forza Italia, UDC e liste civiche. L'ex ministro della giustizia del governo Prodi sfiderà Raffaele Del Vecchio, candidato del centrosinistra, e a Gallipoli sfida tutta interna al centrosinistra. A contendersi la carica di sindaco ci sono Stefano Minerva del Partito Democratico e Flavio Fasano, fuoriuscito dal PD qualche mese fa. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E anche di amministrative ci parla il nostro Daniele Biacchesi nella sua analisi del venerdì. Nelle città italiane ci si appresta a voltare pagina. Con il voto di domenica cambiano i sindaci e con le loro giunte si potrebbero ribaltare i programmi di governo del territorio. I candidati hanno espresso da diversi mesi punti di vista su singoli temi, come quello a Roma su Olimpiade, sì o no, ma non hanno messo in campo uno sguardo d'insieme, un pensiero alto, un progetto a lungo termine. Ad esempio, verso quale direzione si muoverà Milano? Saranno proseguite le linee guida su area C, sharing, centralità delle politiche culturali, solidarietà verso le fasce più deboli e i migranti? A Roma, cosa metterà in campo la nuova giunta sul piano dell'efficienza delle municipalizzate, della trasparenza dei bilanci, dell'etica e più in generale della lotta al malaffare per evitare infiltrazioni di mafia capitale? Torino riuscirà a vincere la sfida del lavoro? Napoli troverà i soldi per risolvere l'annoso problema ambientale della sicurezza? Una cosa però è certa: nella campagna elettorale amministrativa che volge al termine, la più scialba degli ultimi 20 anni, è mancato proprio il futuro delle città. Ed è forse questo il motivo della distanza tra i problemi della vita dei cittadini e le risposte che la politica dovrebbe mettere in campo nel futuro. C'è sciopero dei controllori di volo. Sono 500 i voli a rischio cancellazione oggi pomeriggio per lo sciopero nazionale dei controllori di volo. 4 ore di stop dalle 13 alle 17. La protesta è stata indetta dai sindacati autonomi Unica e Licta. Si prevedono disagi in tutti gli scali italiani. Sul suo sito l'ENAC ha pubblicato la lista dei voli che dovranno essere garantiti. Alitalia invita i suoi passeggeri in partenza a verificare lo stato dei loro voli e in caso di cancellazione fa sapere che cercherà di offrire voli alternativi per la stessa destinazione, se possibile in giornata. Lo stesso stanno facendo anche altre compagnie. All'aeroporto di Fiumicino saranno 78 i voli cancellati. I due sindacati protestano per motivi diversi. I loro scioperi erano stati in un primo tempo differiti dal Ministero delle Infrastrutture, ma ieri il TAR del Lazio ha accolto i loro ricorsi. È stata quindi confermata l'agitazione, che si svolgerà in coincidenza con la partita di calcio Italia-Svezia. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E dunque altro sciopero in coincidenza con la partita che inizierà tra meno di 3 ore. Dario Ricci, nostro inviato a Tolosa. Dario, buongiorno, ciao. Buongiorno da Tolosa. Beh, noi altro che sciopero, Simone, se non sbaglio facciamo anche lo assolutamente, partita, assolutamente. Cioè, tutti convocati in diretta fino alle 17, cioè quando finisce lo sciopero dei controllori di volo, tra l'altro. Quindi perfetto, abbiamo almeno a quel punto il volo di ritorno dovrebbe essere assicurato, ma speriamo anche di procrastinarlo, perché questa Italia cerca oggi qui a Tolosa la qualificazione agli ottavi. Niente calcoli contro Zlatan Ibrahimovic, vecchio amico nemico del calcio italiano. 12 anni fa, proprio questo giorno, con un colpo di tacco soprannominato dello scorpione, che ricorderete tutti, ci eliminò di fatto, contribuì a eliminarci dagli europei del 2004. Beh, speriamo che oggi vada decisamente in modo diverso. 33.000 spettatori nel grazioso stadio municipale di Tolosa, che si trova sull'isola Aranier in mezzo alla Garonna, tutto esaurito. 10.000 circa gli italiani, altrettanti gli svedesi. Beh, allora intanto vi farei sentire le voci di alcuni tifosi che abbiamo raccolto, poi andiamo sulle formazioni e sul tema sicurezza. Sentiamo i tifosi, questi arrivati da Taranto oggi proprio per tifare azzurri. Oggi vinciamo. Si deve vincere e basta. Questa è sicura la qualificazione dopo sta partita. Ma è stato bravo Bonucci, è stato bravo. Poi anche Candreva. Poi sì, tranne Darmian, che poteva giocare un po' meglio. Non lo so. Certo che vinciamo l'Europeo quest'anno. L'Italia di Conte, l'Italia del sangue e sudore. Questa è l'Italia che piace a noi italiani. Ecco, un'Italia del sangue e sudore che piace agli italiani, ma anche a Conte, che sembra orientato a confermare praticamente 10 undicesimi della vittoriosa sfida di Lione col Belgio. L'unico avvicendamento dovrebbe essere lungo l'out sinistro, con Florenzi dal primo minuto al posto di Darmian. Chiuderei sul tema sicurezza, Simone, controlli solerti approfonditi, ma sempre col sorriso sulle labbra. Devo dire che noi, entrando in auto qui nel Media Center, abbiamo avuto i nostri bagagli controllati, l'auto bonificata, insomma tutto col sorriso sulle labbra, ma c'è grande attenzione. Il clima è quello di una festa calcistica, speriamo alla fine di festeggiare un po' più noi, ecco. Speriamo davvero. Grazie a Dario Ricci. Dunque, partita a partire dalle 15 e, come si diceva, tutti i convocati, sarà in diretta oggi eccezionalmente fino alle 17. Prima di chiudere, andare al traffico e poi iniziare il nostro consueto giro per l'Italia, una storia che arriva dall'Antartide, dove è partita una missione di salvataggio per un'emergenza medica che richiede un ricovero, una missione che dovrà raggiungere la base di ricerca americana Munsen Scott al Polo Sud, che è proprio al Polo Sud geografico. Perché è particolarmente pericolosa? Perché è organizzata quando freddo e buio sono al culmine nel continente bianco. Abbiamo in linea Chiara Montanari, che è capo spedizione della missione italiana in Antartide e che è appena tornata. La troviamo in Italia, direi quasi per caso. Montanari, buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Buongiorno. Grazie. Allora, ci racconta com'è la situazione in questo momento in Antartide, per capire quant'è pericolosa questa missione. Ma in questo momento in Antartide è inverno e ho appena visto le temperature a Munsen Scott, sono intorno a meno 59 gradi, quindi le temperature scenderanno poi fino verso meno 80 gradi nel futuro, quindi la situazione è di estremo freddo e anche estrema incertezza dal punto di vista delle condizioni meteo, perché le tempeste in questo periodo arrivano molto all'improvviso e sono frequenti. Sì, quindi è un'operazione molto molto rischiosa. Tra l'altro è la prima volta che viene tentata un'operazione del genere. Tipicamente i team invernali che passano l'inverno in Antartide sanno che qualsiasi cosa succede non possono essere raggiunti. Non possono essere raggiunti. Invece in questo caso si tenterà il tentativo di arrivare, sì, a destinazione il 19 di giugno, no? Sì. Sì, in questo momento non ci sono tante informazioni su quello che è successo, però si sta cercando di evacuare un ricercatore che ha bisogno di cure mediche urgenti e in questo momento alla base South Pole, perché si trova esattamente nel punto del sud geografico, ci sono 48 persone in questo momento nella base. Mi dà un accenno, se riesce, in 30-40 secondi di com'è la vita là, cioè qual è il vostro nemico più grande, cos'è il vento, il freddo, la somma di tutti e due? Ma il nostro nemico più grande è sì il freddo, il vento, ma soprattutto le situazioni impreviste che, insomma, che accadono, perché non abbiamo troppa conoscenza di questi luoghi ancora, e nello stesso tempo la logistica per gestire le spedizioni in queste condizioni estreme è talmente complessa che è veramente impossibile controllare ogni aspetto, quindi l'imprevisto direi è il nostro principale nemico. Si può uscire fuori durante l'inverno antartico? Sì, si può uscire fuori. A Concordia, per esempio, si riesce a stare al massimo 20 minuti, poi arriva il congelamento. Quindi abbiamo degli shelter che sono vicini alla base, che sono raggiungibili, e moltissime procedure di sicurezza. La ringrazio, grazie Chiara Montanari, capo spedizione della missione in Antartide, per la chiarezza e anche la rapidità che ci ha dato. Noi adesso ci fermiamo, c'è una pausa come sempre per il traffico, iniziamo il nostro giro per l'Italia subito dopo. Andremo innanzitutto sul lago d'Iseo, dove tra stasera e domani mattina, non si è ancora capito bene, inaugura questa grande opera dell'artista Cristo, questi 3 chilometri di passerelle di passeggiata sul lago d'Iseo, delle passerelle galleggianti. Andremo di nuovo in Calabria, dove oggi la nostra Raffaella Calandra è tra due paesi che sono tra quelli a più alta densità mafiosa, e poi andremo anche su un altro lago, quello di Como, che questa notte è esondato, e ritorna la polemica sulle paratie, sui lavori mai conclusi. Traffico. Effetto giorno. Perfetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato dell'assassinio della deputata britannica Jo Cox e degli aggiornamenti sulle indagini, abbiamo parlato della morte di David Rossi, l'ex manager di Monte dei Paschi, perché è stato pubblicato un video, abbiamo parlato del forum economico di San Pietroburgo, abbiamo parlato degli europei di calcio e dell'Italia. Qualcuno ci dice, ci scrive, non avete parlato nella prima parte della trasmissione di Sicilia, ci arriveremo tra un attimo, sono 32 ancora i roghi attivi, ha parlato anche il ministro dell'interno Angelino Alfano e tra un attimo ci arriveremo. Ma prima tocchiamo un tema più leggero, lo facciamo con Paola Pezzotti, sindaco di Sulzano, che torna ai nostri microfoni. Buongiorno sindaco, benvenuta. Buongiorno a tutti. Eccoci qua, il luogo centrale per così dire da quale parte la passerella realizzata dall'artista Cristo sul lago di Iseo, lo ricordiamo, è il sesto lago d'Italia per dimensioni, in quella zona potrebbero arrivare fino a 1 milione di persone, forse addirittura di più, a visitare, a fare questa passeggiata con passerelle galleggianti sul lago. Considerate che quando Cristo impacchettò il Reichstag, il Parlamento tedesco, i visitatori che arrivarono furono 5 milioni. Ora, io non penso che siate in grado di reggere una dimensione di questo tipo, no? Non mi spaventi con i numeri. No, assolutamente. Quella era anche Berlino, era tutto un po' più semplice, esatto. Tutto sommato, e probabilmente c'erano anche molti, molti berlinesi. 1 milione più o meno è la cifra che vi attendete, no? Sì, diciamo che siamo organizzati, siamo preparati, abbiamo lavorato per 20 mesi costantemente a questo progetto, riusciamo ad accogliere dalle 50 alle 60 mila persone giornalmente in maniera fluida e ben organizzata, quindi siamo pronti, il tessuto è stato posato e si può vedere il centro di Sulzano, di questo giallo d'aglia. Esatto, ma tra l'altro il tessuto, che è questo tessuto che ricopre le passerelle, in realtà voi l'avete messo anche in giro per le vie della città. Sì, l'artista l'ha posato già dalle due piazze di Sulzano, da tutta la via centrale, proprio perché così si comincia a prendere confidenza con la particolarità della sua opera, che è proprio il tessuto e il colore del suo tessuto, questo colore giallo d'aglia che cambia le tonalità in base alla luce, e quindi è veramente una bellezza estetica incredibile da vedere. Abbiamo Sulzano e Montisola invase già da un sacco di persone, di turisti, di curiosi, di giornalisti, di tecnici, quindi abbiamo già un paese vivo, attivo, in fermento, è bellissimo nonostante sia un po' caotico. È anche bello vederlo così, immagino, perché voglio dire, di turismo da voi qualcosa ce n'è, però non è un turismo di massa, no, non è il turismo che si vede sul lago di Como, per esempio, o sul Garda. Non siamo abituati a vedere così tanto movimento, così tanta gente in stupore, contenta, soddisfatta, che si fotografa, è proprio bello, si è trasformato un pezzo di lago e quindi noi non possiamo che essere felici e con ansia aspettare veramente domani, quando ci sarà l'apertura dell'opera, si potrà passeggiare anche sul floating pier. Domani, perché ci sono alcune voci che dicevano domani. Si inaugura stanotte, non si sa esattamente quando. No, l'apertura è dal 18 di giugno, non c'è un orario, quindi immaginiamo che domani nella prima mattina, magari con la luce dell'alba, in modo tale che sia anche suggestivo, però non c'è un orario, bisognerà vedere. Oggi c'è l'ultima riunione per decidere i dettagli e poi bisogna vedere se l'artista ha finito tutto ciò che deve essere perfetto per l'apertura, quindi sarà domani mattina. Allora la ringrazio, grazie a Paola Pezzotti, sindaco di Sulzano, ovviamente buon lavoro per queste due settimane piuttosto intense. Tra l'altro noi seguiremo l'apertura di quest'opera e ci sarà un reportage di Radio 24 che andrà in onda domenica mattina su questo. Noi ci spostiamo dall'altra parte d'Italia, nel nostro giro per l'Italia, e andiamo in Calabria, dove da 3 giorni vi stiamo proponendo dei racconti da parte della nostra inviata Raffaella Calandra. Abbiamo raccontato per esempio ieri la questione della tendopoli di San Ferdinando a 2 passi da Rosarno, quella tendopoli che è diventata una specie di baraccopoli appunto. Vi abbiamo raccontato di storie di donne, di imprenditrici minacciate dall'andrangheta. Oggi andiamo tra due dei paesi che sono considerati a più alta densità mafiosa, San Luca e Platì. Raffaella, eccoci, cosa ci vuoi raccontare oggi? Sì Simone, io mi trovo nella piazza di San Luca, cuore dell''Ndrangheta, il paese è considerato la mamma delle famiglie di 'Ndrangheta, e alle mie spalle c'è il palazzo del comune dove ora siede un commissario prefettizio, perché ci sono posti dove non solo il voto non è garantito, e questo è ancora più particolare considerato che appunto domenica invece in molte altre città d'Italia si vota per i ballottaggi. Se questo voto non è più neanche cercato. Qui infatti a San Luca, dopo lo scioglimento, è stato lo scioglimento per le infiltrazioni mafiose, l'ultima volta nessuna lista si è presentata, ma ora la gente sta raccogliendo firme perché resti il commissario invece di nuove urne. È inutile votare, almeno ora si puliscono le strade, mi raccontano un gruppo di anziani dopo aver superato una certa diffidenza, arrabbiati dal fatto che qui basta solo un cognome, si infervorano per sciogliere la giunta. E qui comunque siamo tutti imparentati, dicono, gli stessi temi che a Platì hanno fatto sì che per 10 anni sia mancato il sindaco. Di 'Ndrangheta comunque non si vuole parlare, sono storie del passato, dicono, mele marce le definiscono, e piuttosto raccontano di uno stigma, quello di essere nati nel paese appunto madre dell''Ndrangheta, che impedisce ai più giovani di lavorare senza un nulla osta delle forze dell'ordine, e quindi diventa un circolo vizioso. Di sicuro neanche dalle persone estranee a certi giri esiste una autentica e forte presa di distanza dai clan, e allora quasi alcuni citano sì, per concludere. Sì, mi sembra di capire da quel che ci racconti Raffaella che è come se non ammettessero che l''Ndrangheta c'è. Dicono che c'è, ma quelli che lo dicono, perché per molti non ne vogliono parlare, la circondano a fatti del passato, dicono ma c'è qui come c'è in tutta Italia, c'è qui come c'è, la portano su un altro schema, cioè volete soltanto puntare il dito contro di noi perché noi siamo quelli di San Luca, ma invece in realtà qui c'è tanta gente per bene che non trova lavoro perché viene additata come una realtà fatta solo di 'Ndrangheta. Sì, un po' mi viene da dire Raffaella, la stessa risposta i nostri ascoltatori l'avranno sentita, che ci ha dato il sindaco di Platì quando l'abbiamo intervistato, appena eletto, ci ha detto appunto sì, ok, qua non c'è un problema diverso da quello che troviamo in altre parti d'Italia, ha citato Mafia Capitale, ha citato i problemi di Milano e così via, questo è un po' il refrain di questa zona, che comunque Platì è qui accanto e ha gli stessi temi, quella piuttosto di dire è una questione che non è solo nostra, ma noi al contrario degli altri veniamo per questo danneggiati, perché basta un cognome per tenerti fuori dal lavoro, basta un cognome per sciogliere la giunta, e a quel punto tanto vale non avere più un sindaco ma avere un commissario che almeno garantisce quei servizi minimi. Va anche detto, Simone, che allora qui esiste uno dei paesi, sì, appunto considerato la mamma dell''Ndrangheta, quindi sono le famiglie più potenti, qui c'è il santuario della Madonna di Polsi, esistono però anche delle persone che non hanno nulla a che fare, questo va anche detto. Con le realtà malavitose, e che però pagano una realtà di isolamento dove qui non esistono collegamenti per uscire al di fuori di questo paesino arroccato comunque su una montagna, non esistono altro genere, non so, attività sportive che adesso la CGIL sta cercando lentamente di introdurre per i ragazzini. Diventa davvero un circolo vizioso per cui, come mi ha citato un signore, è proprio vero quello che c'è scritto in una lapide qui del paese di Corrado Alvaro, illustre appunto concittadino di San Luca, che diceva la disperazione più grave che possa impadronirsi di una società è il dubbio che vivere onestamente sia inutile. Parole un po' tristi. E con le quali chiudiamo questo collegamento, e io ti ringrazio. Grazie alla nostra Raffaella Calandra, inviata in Calabria. Noi adesso ci fermiamo, c'è la borsa, come sempre, l'aggiornamento sui mercati, e poi andremo a parlare di roghe in Sicilia da una parte, dall'altra andremo su un altro lago, quello di Como, che questa notte è esondato, risollevando il problema delle paratie e dei lavori fermi. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli: la deputata britannica Jo Cox aveva ricevuto minacce nei mesi scorsi, è stato trovato tra l'altro un collegamento tra il suo assassino e un gruppo suprematista bianco ostile all'Europa. Un giornale americano ha pubblicato un video del momento dopo il presunto suicidio di David Rossi, l'ex manager di Monte dei Paschi, ma la procura dice che gli uomini ripresi erano già stati identificati. Renzi a San Pietroburgo, accordi con la Russia per 1 miliardo di euro, lavoriamo per costruire ponti, dice Mosca, contiamo sull'Italia come hub energetico. In Sicilia sono ancora 32 i roghi attivi, anche se la situazione sta tornando sotto controllo, parla il ministro Alfano dopo una riunione in prefettura e promette di punire duramente i piromani. Attesa per l'Italia, tra 1 ora e mezza in campo contro la Svezia per gli europei di calcio, ci sarà Florenzi al posto di Darmian. La borsa. Pioneer Investments, leader globale nella creazione di soluzioni di investimento. Vi presenta Effetto Giorno. C'è un'immagine terrificante che sta girando in queste ore su internet ed è un'immagine che ne affianca due in realtà. C'è un'area alle spalle di Cefalù, ritratta probabilmente nei giorni scorsi e nelle settimane scorse, e un'area ritratta ieri, dopo l'incendio che uno degli incendi che stanno devastando un pezzo della Sicilia. Ed è impressionante perché da una parte abbiamo il verde e dall'altra abbiamo una collina completamente spoglia e completamente bruciata. Rosario Lapunzina, sindaco di Cefalù, buongiorno, benvenuto ai nostri microfoni. Buongiorno a voi. Un disastro. Sì, purtroppo diciamo che questo incendio che è partito da Collesano e che poi l'indomani mattina si è presentato passando da zona Gratteri a Lascari, è arrivato al Costa Verde, dal Costa Verde con una velocità impressionante perché il vento era molto forte, in assenza di trasto da parte dei Canadair perché non potevano volare, perché c'erano diverse turbolenze, vento forte, anche se hanno fatto qualche tentativo. Il vento ha distrutto parecchia vegetazione ed è ha attraversato una zona residenziale per poi presentarsi fino addirittura al Club Med, cioè nel Club Med di cui stanno partendo i lavori per la ristrutturazione e per la costruzione di un 5 tridenti, e ha bruciato le capanne, le vecchie capanne che andavano ormai portate in discarica, e poi si è presentato sul lungomare di Cefalù passando attraverso le ferrovie, ma proprio con tutto questo a grande velocità. Per cui non abbiamo salvato tutte le vite umane, abbiamo messo in salvo tutti, abbiamo presidiato tutti i punti sensibili e poi oggi stiamo facendo la conta dei danni e ci stiamo cercando di riprendere la situazione. È evidente, sì, che abbiamo la stagione estiva da affrontare, per cui tutto questo deve essere fatto in fretta, dando soccorso ai cittadini che hanno ricevuto danni, sì, e nello stesso tempo alle imprese turistiche, immagino, sì, naturalmente. Nello stesso tempo c'è una discoteca che è andata distrutta e un ristorante sul lungomare che sono andati distrutti. Dolosi sicuramente, sindaco, no? No, io registro un fatto. Noi ieri avevamo l'incendio a Cefalù, mentre c'era un incendio a Palermo e c'era un incendio in altre 10 località in provincia di Palermo, e c'erano 400 focolai in tutta la Sicilia. Che tutto questo possa essere un fatto, diciamo, di autocombustione mi pare molto difficile, anche perché ieri, nella giornata di ieri, mentre noi fronteggiavamo il fuoco, sì, cioè diciamo, non è che 400 persone contemporaneamente buttano una sigaretta in mezzo alle sterpaglie secche, insomma, in tutta la Sicilia. E mentre noi fronteggiavamo il fuoco lato Palermo, ha avuto un incendio molto distante verso Messina, per cui diciamo che non è stato nemmeno il vento a poterlo trasportare. Per cui noi registriamo che è successo già nel 2007, è successo già a settembre del 2012, e evidentemente quando ci sono tutti questi incendi le forze messe in campo non bastano. Non bastano. Nonostante il succedente del prefetto aveva altre emergenze, ma il successivamente perfetto, sì, ha seguito personalmente insieme al sottoscritto e abbiamo, sì, istituito il COM, sì, oggi ho avuto una riunione, sì, con il ministro Alfano come dire, a Palermo, per cui Noi siamo stati sfiditi, ma evidentemente quando il vento la fa da padrona su tutto il resto, insomma. Certo, è difficile intervenire. La ringrazio, grazie Rosario Lapunzina, sindaco di Cefalù, e dal fuoco andiamo alle acque, quelle del lago di Como. Diego Minonzio, direttore della provincia di Como, buongiorno, ciao direttore, benvenuto. Buongiorno a voi, grazie mille. Allora, esondato questa notte a causa anche delle intensissime piogge, anche molto violente, che hanno colpito un pezzo della Lombardia, per quasi a voler riaccendere questa esondazione la polemica sulle famose paratie, i cui lavori sono fermi, no? No, certo, diciamo che là c'è il fuoco, qua c'è l'acqua, però l'Italia è la stessa, lo scandalo è uno solo, cioè opere idrauliche per evitare l'esondazione del lago, che vanno avanti da 8 anni, da 4 anni sono ferme, sono costate già 33 milioni ad oggi di soldi pubblici, morale, oggi il lago è esondato di nuovo. Quindi questa è proprio la dimostrazione di quanto l'insipienza, l'incapacità e l'incompetenza della politica abbia appunto sprecato 33 milioni di euro nostri per non far esondare il lago, e oggi è esondato. Non è una grande esondazione, una di quelle clamorose, perché quelle grandi e gravi accadono una volta ogni 20 anni, quindi l'opera oltretutto è pure inutile, ma pur di portare a casa soldi legati alla legge Valtellina ci si inventano emergenze che non ci sono, si fanno dei lavori fatti male che poi finiscono appunto sotto l'ente della Corte dei Conti, della Procura, con arresti e tutto quello che c'è di conseguenza, col risultato di non fare nulla, e il lago quando esce continua a uscire tranquillamente. Senti, ma c'è una possibilità che questi lavori finiscano? Io voglio ricordare che tra l'altro la provincia di Como ha lanciato quella splendida iniziativa delle cartoline da inviare al governo per far togliere, no, proprio appunto i lavori per le paratie che impedivano di vedere il lungo lago, questo solo come accenno, ma c'è una possibilità che finiscano questi lavori oppure no? O al momento tra la Procura, la Corte dei Conti, la Giunta che traballa è tutto fermo? Ma direi che la situazione è complicatissima. Devo dire che il successo è veramente clamoroso della nostra campagna, che è andata anche al di là dei confini territoriali, ma nazionali e internazionali, ha comunque smosso delle cose. Naturalmente gli arresti sono una coincidenza, però c'è fra pochi giorni un tavolo importante che dovrebbe aiutare a sbloccare i lavori. Noi, come dire, abbiamo avuto la capacità di riunire la forza di 60.000-70.000 comaschi, che hanno fatto capire a Roma che c'è tutta una comunità che vuole assolutamente il termine dei lavori e il ripristino del lungo lago, perché ricordo che oltre alla gravità del fatto che le paratie non funzionino, questi lavori hanno distrutto il lungo lago più bello d'Italia e il lungo lago più famoso, italiano più famoso al mondo, quindi con un riflesso internazionale che appunto è finito sui giornali anglosassoni di mezzo mondo. Quindi secondo me la capacità della collettività attorno al suo giornale storico di dimostrare, manifestare a Roma questa volontà di Como di risolvere il problema sta muovendo qualcosa. Speriamo, guarda direttore, ti devo salutare che dobbiamo chiudere, speriamo che smuova veramente qualcosa anche l'utilità dei giornali locali in questo caso. Grazie a Diego Minozio, direttore della provincia di Como. Traffico, Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.